rincari sono il frutto di una contingenza davvero molto ampia di eventi che si stanno susseguendo nel corso degli ultimi mesi, e a partire dalla pandemia che ha colpito tutti quanti. Se il 2020 è stato l'anno della crisi dell'industria energetica globale, in cui le fonti fossili sono state colpite durissimamente, il 2021, che è l'anno del ritorno alla crescita di tante economie mondiali, a partire naturalmente dalla Cina, che era cresciuta anche nel 2020, ma che quest'anno crescerà ancora di più, e poi l'Europa e gli Stati Uniti, trainano questi consumi energetici e i pacchetti, diciamo, che i governi stanno spendendo, le grandi missioni di denaro che i governi stanno mettendo per far ripartire l'economia, stanno generando una grandissima domanda, un grandissimo ritorno della domanda di fonti energetiche, e nell'immediatezza, vista la struttura dei nostri mix energetici, è chiaro che le fonti fossili hanno subito un grandissimo rimbalzo. Se il 2020 appunto aveva registrato un loro calo, un calo della domanda, il 2021 invece registra un fortissimo ritorno della domanda e un'incapacità strutturale dell'industria energetica, questo però a livello globale, di rispondere a queste domande nel breve termine. Questo aumento della domanda potrebbe provocare anche in certi contesti dei blackout. I blackout, diciamo che saranno l'ultima possibilità che i governi si daranno per dare una risposta a questa crisi. Quello che però già vediamo, almeno in Europa, è una difficoltà da parte di certi settori, nell'industria alimentare, nell'industria pesante, a continuare a produrre con questi costi energetici, soprattutto per quello che riguarda il gas naturale, i cui prezzi sono decuplicati nel corso degli ultimi 12 mesi, mettendo davvero in serie difficoltà diverse industrie, diversi settori a livello globale. In Europa ci sono già state le prime fabbriche che hanno chiuso, questo non soltanto nel Regno Unito, che insomma è nell'occhio del ciclone ormai da settimane per una crisi dovuta anche alla Brexit, ma anche in Europa, anche in Olanda, Germania e anche in Italia alcune fabbriche hanno già dovuto ridurre le produzioni proprio per i costi eccessivi delle risorse energetiche, in primis il gas naturale. A proposito di Europa, tu in un articolo sul Fatto Quotidiano dici che questo problema potrebbe rallentare e inficiare anche la transizione energetica, la transizione ecologica decisa dalla Commissione europea. Certo, dunque la Commissione europea, soprattutto questa Commissione europea, ha davvero puntato tantissimo sul Green Deal e sulla transizione energetica verso fonti rinnovabili, e quindi uno degli obiettivi primari dell'intera struttura della Commissione dei prossimi anni. La situazione attuale è, secondo le autorità della stessa Commissione, il campanello d'allarme che deve far convincere tutti quanti ad accelerare la stessa transizione, a partire da Frans Timmermans, che è il responsabile per il clima all'interno della Commissione, che ha sottolineato come questa contingenza appunto sia un segnale assolutamente ineludibile della necessità di implementare il pacchetto Fit for 55 della Commissione europea, che prevede appunto la riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030. Dall'altra parte però i governi si trovano davanti a costi crescenti, malumori interni, difficoltà economiche, questo chiaramente legato sia alla pandemia ma anche a situazioni pregresse delle economie europee. E cosa succede? Ogni governo cerca di affrontare la situazione come meglio può e con gli strumenti che il proprio paese ha a disposizione. Quindi paesi che hanno una forte dipendenza dal carbone, come nell'Europa dell'Est, hanno aumentato i propri consumi del carbone. Questo però non sta solo succedendo nell'Europa dell'Est, ma sta succedendo anche in Germania, ad esempio, dove il carbone per diverse settimane è stato più conveniente del gas naturale. E questo chiaramente va contro sia gli annunci stessi della cancelliera Merkel, va contro sia gli obiettivi della prossima coalizione guidata da SPD, ma con anche liberali e verdi, che in Germania andrà probabilmente a governare nei prossimi anni, e va contro gli stessi obiettivi della Commissione. Questa è una situazione che magari potrebbe continuare per alcune settimane, alcuni mesi, del ritorno al consumo del carbone, che, questo è già sicuro, nel 2021 vedrà una crescita a livello globale, dopo molti anni in cui in realtà il consumo del carbone era in declino ovunque al di fuori della Cina e dell'India. Quest'anno però il ritorno del carbone segna un po' il passo della situazione e della gravità della situazione in cui ci troviamo, della difficoltà degli stessi governi a portare avanti questa transizione energetica.